Flash Bit di Giulia Crivelli. Four things we learned from Black Friday and Cyber Monday about America's changing shopping habits. Il Washington Post titolava così l'articolo sul bilancio delle prime giornate di shopping natalizio negli Stati Uniti. La traduzione letterale è quattro cose, four things, che abbiamo imparato dal venerdì nero, Black Friday, e dal lunedì cibernetico, Cyber Monday, sui cambiamenti delle abitudini di shopping dell'America. Ma la traduzione letterale è fuorviante. Per Black Friday si intende infatti il venerdì che viene dopo Thanksgiving, giorno del ringraziamento, la più americana delle festività, che cade ogni ultimo giovedì di novembre, che quest'anno è stata quindi il 26. Dopo aver trascorso la giornata in famiglia con pranzi simili per abbondanza a quelli natalizi, gli americani si danno allo shopping, approfittando degli sconti. Il venerdì è nero, black, non perché sia infelice o peggio porti sfortuna, ma perché gli acquisti sono talmente alti che possono portare in nero, cioè in attivo, anziché in rosso, i bilanci delle aziende. Cyber Monday, invece, è un neologismo più recente, nato con l'esplosione dell'e-commerce. Anche in questo caso si tratta del lunedì dopo Thanksgiving. E anche in questo caso i siti offrono speciali sconti. E veniamo alle four things che secondo il Washington Post Black Friday e Cyber Monday hanno insegnato. Primo, we're getting more comfortable buying from our phones. Ci sentiamo più sicuri, comfortable, letteralmente a nostro agio, a comprare dai telefoni. Cresce cioè il mobile shopping. Ricordiamoci che gli americani dicono mobile phones molto più che cellular phone. 2. Cyber Monday remains big, but it's losing ground as the most important online shopping day. Il lunedì resta grande, ma perde terreno, losing ground, come giorno più importante per lo shopping online. 3. In-store shoppers were highly efficient. Chi ha fatto shopping fisico, cioè in-store e non online, lo ha fatto in modo molto efficiente. 4. For all the time we spend on social media, it's not doing much to drive sales. Il tanto tempo che spendiamo sui social media non sta facendo molto per aumentare le vendite. Questo è forse il punto più interessante. Secondo il software Custora, Facebook, Pinterest, Twitter e Instagram hanno ispirato to drive, quindi passato drove, solo 1,7% of total online sales on Black Friday.